Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Eccoci qua. Sono le 8:20 ed è venerdì. Ecco, infatti, soprattutto diciamolo ai nostri ascoltatori che è venerdì. E naturalmente noi lo diciamo con assoluta calma, anche perché è il giorno prima della disfida domani sera di calcio. Vabbè, certo. Siamo alla vigilia d'armi, per così. E quindi non bisogna dire nulla. Nulla. No, bisogna rispettare tutti e quindi... naturalmente pensiamo con grande testa all'arbitro designato. Allora, i santi di oggi, tra le tante, Santa Eulalia, questa povera Santa Eulalia, a cui per ucciderla sotto Diocleziano, che lei come sempre vergine martire, come si suol dire, però le hanno fatto di tutto, le hanno tagliato le tette, l'hanno straziata in tutti gli arti, l'hanno crocifissa, alla fine no, niente, lo spirito santo era con lei, hanno deciso di decapitarla, niente, continuava a professare anche decapitata la sua fede. Insomma, è un simbolo di quello che può capitare quando la fede è veramente rocciosa, un pochino come quella del governo che ieri ha deciso di abolire le clausole di garanzia nella prossima legge di stabilità. Non si è capito bene come, però se leggete sui giornali hanno deciso di abolirle senza rispettarle, prendendosela con l'Europa. No, ma al di là di tutto, auguri anche a chi si chiama Ludano Melezio, nomi un po' strani, però il calendario ci propone questo. Melezio, sì. Insomma. Il calendario liturgico, del resto ieri che era l'anniversario dei patti lateranensi e il cardinal Bagnasco ne ha approfittato, per così dire. Sì, c'è chi dice che sia entrato a gamba tesa, dicendo che il voto si auspica un voto segreto. In realtà poi lui dice: io non è che volevo entrare in questioni tecniche su come si voti, non lo so. Qui ovviamente il direttore d'Avvenire lo difende, ma si sa, il direttore d'Avvenire parla per la CEI, e c'è chi dice invece non doveva proprio fare un intervento del genere. Secondo me la risposta del governo ieri ci stava, perché, ripeto, lui è la testa di una carica istituzionale delle gerarchie italiane, dire addirittura al Senato come deve votare, oltre che su che cosa, mi sembra un po' eccessivo. Dai. E come? Auspicio. Ecco, com'è che dicono loro? Un auspicio. Sì, ma immagina se il Presidente della Repubblica emettesse delle dichiarazioni su come si deve votare nel sinodo su questo o quell'argomento. Se auspicasse qualcosa. Dai, insomma, non ti è piaciuta. No, ma è un riflesso condizionato della cultura dell'11 febbraio, dell'accordo con Mussolini, per cui ci sono dei rapporti che ci si riconosce di reciproca ingerenza, mentre invece non dovrebbe essere così. Ma devo dire che la maggior parte dei giornali sono orientati appunto a dire così, insomma, l'espressione entra a gamba tesa, giusto per usare un termine calcistico, è l'espressione che viene più gettonata sui giornali. Io non so se tra l'altro gli italiani lo sanno, ma il 17 aprile si va a votare. Credo che non lo sappiano. Si va a votare per un referendum. Non lo sanno, forse non andranno a votare. Il mio pronostico è che sarà un referendum, se confermato il 17 aprile, forse arriveremo al 10% di anzi, di forse il governo ha scelto il 17 aprile proprio per quello che stai dicendo tu. Cioè, per fare naufragare questo referendum sulle trivelle, diciamo così. Si vota su un quesito. All'inizio erano di più, Oscar. Sì, all'inizio erano 6, esattamente. E ne è stato accolto. Poi il governo... per non far tenere il referendum, perché promosso da regioni le cui guida sono i governatori del PD che criticano il governo, quindi così che imbarazzava molto il referendum e il governo stesso, il governo è intervenuto in legge di stabilità cambiando le norme su cui c'erano i quesiti, però non le hanno cambiate bene e una è sopravvissuta. Esatto, e c'è questa polemica perché è stato stabilito che si voterà il 17 aprile, cioè non si fa l'election day, non si vota quando si va a votare che per le amministrative, che uno magari è già lì e dice toh, c'è anche un referendum da votare, lo voto. No, si voterà il 17 aprile separati. rispetto agli altri, rispetto alle elezioni amministrative. E qui il governo, come dice, se vuoi ragazzi, state a casa. State sì, a casa. Cioè lo voglio, ma però dal punto di vista legale si può, dal punto di vista costituzionale, è una questione di inopportunità politica. Non che dire il panno di Nerucci, visto che bisogna andare a rivotare anche a ottobre per il referendum confermativo della Costituzione. E ogni botta partono 360-400 milioni. La stima è questa, cioè ci costerà 300 milioni in più per il fatto di non votare insieme alle amministrative. Ma voi lo sapevate che si votava? Chiamateci all'800-24-0024. Cosa sapete di questo referendum? Le trivellazioni, no? Sì. Noi avremo il presidente della regione Puglia, Emiliano. Diteci che ne pensate, anche se avete seguito, se per voi è una polemica che vi appassiona oppure no. Ma ti appassionano invece i senatori che non timbrano? Beh, insomma, i senatori che non timbrano, scrive il Messaggero, scusate, hanno veramente fatto delle dichiarazioni giustamente terribili nei confronti di quelli che a Sanremo timbravano e andavano via dal comune. Ora si scopre, grazie al Messaggero, che molti senatori lasciano il loro tesserino nello scranno, così anche se vanno via risultano presenti e non perdono la diaria di 3.500 euro al mese. No, ma adesso, secondo me dovrebbe valere per l'indignazione, nonché per le misure però da assumere, una proporzionalità ai soldi effetto della truffa. Cioè, se quelli di Sanremo truffavano, e noi ne abbiamo giustamente invocato il licenziamento, loro anche ne hanno invocato il licenziamento. Bravo. Allora, cioè, questi qua con lo stesso metodo si beccano 3.500 euro in più al mese solo per questo. Allora io invocherei una misura proporzionale. Ma come fai a scoprirlo? Perché il commesso dice: finita la seduta, andiamo nei banchi a recuperare tutti i tesserini lasciati lì mentre i senatori non ci sono. Ma tanto ti dice: ma no, ero al bagno, ma no, ero al bar, alla buvette, come diavolo si chiama. Ci sono le telecamere. Ah, le telecamere. No, è pubblico lì. Ecco. Tranne che quando ci sono riunioni coperte da particolari ragioni di riservatezza. Come sono i dipendenti pubblici, dice. Oh, in fondo i dipendenti pubblici. Finanza, metti le telecamere, mettine di più, telecamere, no, della Guardia di Finanza. Sono in Parlamento. Però detto questo, la mia opinione è che, naturalmente, loro la scamperanno. Mentre io invece fossi un questore del Senato e così via, farei una battaglia atroce per dire: ci dovete rimettere i soldi, quantomeno. Ricordiamo che il questore del Senato però è un senatore anche lui. Esatto, e che so. Poi, come ci raccontava D'Ambruoso, questore alla Camera, no, se prende una decisione contraria, poi ci sono quelli che gli fanno, non dico lo sgambetto nei corridoi, ma... Motivo per il quale bisognerebbe mettere presenze terze anche alle Camere e al Senato, abolire l'autodichia, abolire tutte queste robe corporative senza senso, ma con questo, per questa pretesa di essere sopra il mondo, sopra i controlli. Ma questa è democrazia? A me sembra un retaggio di uno stato assoluto. Ecco, è una cosa da... No, soprattutto da fastidio il fatto che siano proprio loro a dire per primi. Capito? Ma giustamente licenziamo i furbetti del cartellino. 3.500 euro? Ma quanti milioni di italiani se lo sognano un reddito mensile di 3.500 euro? Che non è il reddito totale parlamentare, è quello che gli vale solo l'indennità diaria per le commissioni. Solo per essere lì, solo per dimostrare che sei lì, solo la diaria. E va bene. Ci chiamano gli ascoltatori. Caro Oscar, c'è Alfredo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Alfredo. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Eccoci. No, volevo chiedere, solo fare una domanda, ma il signor Giannino questa mattina, il dottor Giannino stamattina è sedato? Perché io, dopo questa notizia del referendum che si farà il 17 di, pensavo che impazzisse con i... È un po' raffreddato. È un po' raffreddato, ma il cardinal Giannino. Detto questo... deve essere anche febbricitante, perché io ho una notizia del genere, mi aspettavo da lui una... Ha ragione, ma non voglio perché sembrare quello che urla sempre, però guardi, questo si chiama no espropri di sovranità, che è così, cioè si strizza l'occhietto a dire: vabbè, ma mettiamolo in un altro giorno, così state a casa. Tenga conto che io... Però io dico: italiani, andate a votare se è così importante. Cioè, andate a votare se lo sentite così importante, no? Sì, cioè, è anche una... Scusa, se si vota già per le amministrative... E questo sì, lo spreco io lo capisco. Ma non è solo lo spreco. Se tu non abbini, vuol dire che c'è un fine dichiarato non abbinandolo, no? Allora, siccome ce l'ha il governo a fine dichiarato... Parentesi, anch'io sono contrario alla campagna contro le ricerche e l'estrazione di ricerche di energie fossili in Italia, ma ciò malgrado penso che se fossi stato al governo sarebbe stato un mio preciso dovere di metterlo nella stessa data delle amministrative il referendum. Perché decidano, se è stato accolto il referendum, decidano i cittadini. Se no, aboliamo il referendum. Ma anche per rispetto verso l'iniziativa assunta nelle forme costituzionali previste dalle regioni che ne hanno promosse. No, altrimenti... Il dato di fatto è che questo sarà certamente uno spreco di denaro, perché ripeto, certo. Se rimane il 17 aprile, vedremo, potrebbe anche essere cambiato di fronte scommetto a una mobilitazione. Di no, però vediamo. Se rimane, ma non lo so, io ho detto il 10% vanno a votare, forse sono stato pessimista, forse sono stato ottimista. Forse sei stato ottimista, in realtà. Non lo so. Comunque Paolo ci chiama da Frosinone. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Sì. Niente, a me fa un po' sorridere diciamo anche l'attenzione che si pone circa appunto il fatto di fare questo election day, cioè fare, scusate, il referendum fuori dall'election day, ma proprio perché mi fa ridere di come uno si indigna della possibilità di non esprimere la propria volontà con questo diciamo referendum, cioè quando invece noi tutti i giorni su tanti argomenti, non ultimo quello delle unioni civili, veniamo messi da parte dal punto di vista decisionale. Quindi che c'è di strano di un governo che fondamentalmente mette nelle condizioni di cassare dall'inizio un referendum? Lo sta dicendo per paradosso, all'inizio non capivo, dicevo, in un paese in cui si fa così poco conto della democrazia diretta, coerente che i governi vogliano che non ci siano i quorum, questo è, ho capito bene? Il governo è coerente, tutto sommato, certo, è coerente, certo. Cioè, nel senso, però si potrebbe ribaltare, una volta che ai cittadini viene chiesto di esprimersi su una cosa, si fa in modo che Marameo. Esatto, che questo che non vadano a votare, di fatto non si facendo leva sul fatto che la gente no ha poca fiducia nel referendum. Paolo, che dici? Ma io non è che dopo che ho visto il referendum è un ottimo strumento, anzi, tra altre cose, le più grandi battaglie proprio di quel popolo che oggi cerca di spingere, l'ultima sulla step adoption e quant'altro, vengono da passi avanti fatti con il referendum. Esatto, quindi tutto sommato dovrebbero essere pro referendum, eppure così, e questa secondo me si vuole dimostrare per l'ennesima volta che è meglio che siano i politici di Roma a scegliere per noi piuttosto che noi cittadini. Ecco, questo ascoltatore però va ringraziato secondo me, Paolo, perché ci sta ricordando che è diventata ormai una faccenda indipendente dalle culture politiche a cui si appartiene. Lui dice ci sono delle culture che dovrebbero essere pro referendum a prescindere, perché sono quelle più vicine, no? Invece no, in Italia se governi puoi essere stato referendario in passato, ma ti dà così fastidio che non decidi tu, che alla fine ecco cosa fai. C'è il timore di quello che decide il popolo. Poi io devo dire, un referendum come sono stati sul divorzio, un referendum sull'aborto, cioè sono referendum su questioni che veramente intercettano l'interesse di tutti. Dispiace dirlo, ma la questione delle trivelle credo che sia una delle... il centesimo pensiero che gli italiani abbiano quando si svegliano al mattino. Quindi sarà molto difficile sensibilizzare gli italiani a dire andate a votare su questa cosa che a parte nelle isole Tremiti, dove peraltro non trivelleranno più e c'è stata questa polemica, tutti la sentono come una cosa un po' lontana dal proprio sentire comune. È così. E comunque vedi che tutti ci scrivono sui senatori, c'è chi dice i lettori di impronta digitale, ma ci sono nello scranno, ci sono per votare, c'è anche l'impronta digitale e poi voti, ma la presenza è fissata solo con il tesserino che rimane nello scranno. C'è chi dice mettete il sensore che rileva il culo praticamente sulla sedia, cioè adesso uno non può neanche alzarsi un secondo. Ci metterebbero quattro volumi della Treccani per fare lo stesso peso. esatto. No, il problema è l'impunità, cari ascoltatori. Ammettiamolo, noi stessi abbiamo dato alla politica italiana per decenni la prova di essere sudditi. Non abbiamo dato prova di esprimere, ripeto, in maniera legale, io non sto invocando né violenza né forconi, però... noi abbiamo piegato la schiena, accettiamo tutto, sì, commentiamo come stiamo facendo qua. La verità è che bisognerebbe non farli entrare una mattina, non dico non farli uscire, mettersi lì 1000 persone all'ingresso, braccia conserte, non ci andate, così è pubblico che siccome non ci andate non la beccate l'indennità oggi. Mandateci i carabinieri per farvi entrare, perché noi oggi decidiamo, oggi simbolicamente, non facendovi entrare, che almeno oggi l'indennità che avete rubato gli altri giorni non la prendete. Mi piace come dire, bisogna farlo 20 giorni di seguito, così l'indennità di quel mese salta, chi la prende perché quel mese vuol dire che ha truffato. Serve per far pareggiare i conti di anni e anni. Va bene, bisogna solo trovare i 1000. mi ricorda qualcosa. No, ma guarda, io sono convinto che cose di questo genere, guarda. Mi poi, ricorda certo, qualcosa. Certo, manderebbero i carabinieri. Ma sai il gusto di farsi menare dai carabinieri agli ordini di chi difende, in quel caso, senatori che probabilmente... Carabinieri che secondo me in quel caso menerebbero, se dovessero menare, ma a malincuore. Ma adesso sono d'accordo. Però starebbero dalla parte di... Esempio un po' sciocco, se volete, ma non lo so, non lo so. Ci chiama anche Francesco da Ravenna. Buongiorno, Francesco. Buongiorno a tutti voi. Eccoci. Grazie dello spazio. Dica, Francesco, eccoci. Dunque, sul referendum l'ho imparato circa una settimana fa dai giornali. Sono 40 anni come diportista che vado in mare, al di là del fatto estrattivo, che almeno qui in Alto Adriatico abbiamo un 25-26 piattaforme, le quali non inquinano assolutamente nulla perché essendo stazione di gas non ci sono nessun tipo di sversamenti, comunque io li vedo che lavorano in modo pulito e corretto. Non sono petroliere, non lavoro in tutt'altro settore, però comunque del danno in mare io non ne vedo. In compenso, questo ve lo può dire chiunque frequenti il mare come l'ho frequentato, lo frequento io, hanno generato una fauna importante, intendo dire questo. Tutti questi tralicci, a partire da molluschi, mitili, alcuni quasi anche gamberetti, hanno creato proprio una catena alimentare che ha contribuito tantissimo al mantenere, direi anzi ad aumentare la presenza di pesce proprio nell'Alto Adriatico. Lei è uno coraggioso, perché sta esponendo tesi che la indicano come uno favorevole a questi impianti, quindi nella no, tesi. Ma io non sono favorevole. Ah, no, ma ho capito. Ma anche perché spesso questi almeno nel 99% dei referendum si delega alla gente una decisione sulla quale c'è spesso totale ignoranza, una decisione che non dovrebbe prendere persone. Questo lo dico palesemente, non solo su questo tema, tanti altri. Perché ci vuole un'informazione approfondita e tecnica. Non sarebbero in grado di decidere su cose così tecniche. No, Francesco, però si fermi qui perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma riprendiamo il filo del discorso perché di questo parliamo, così come se volete parlare di tutti gli altri temi all'800 24 00 24. Tra poco avremo Michele Migliano, uno dei presidenti di quelle regioni che aveva promosso questi referendum e che ora, vedendoselo scorporato l'Election Day, è un po' arrabbiato, un po' arrabbiato. Tra poco. Mattino. Allora, caro Oscar, eccoci qui. Vogliamo parlare, stiamo parlando appunto di questa cosa delle trivelle, di questo. Ma tu andrai a votare? Io andrò a votare comunque, sempre, a votare il referendum, comunque. Siccome io sostengo che uno dei sistemi migliori al mondo è quello della Svizzera, che chiede spesso referendum decisionali, non... se mi danno la facoltà la eserciti. Ma non so, io dovrò valutare, devo capire appunto, devo approfondire l'argomento. Andrà sicuramente a votare, credo, Michele Migliano, presidente della Regione Puglia. Buongiorno Emiliano. Se riusciamo ad avere il tempo di fare una campagna per il referendum, forse riusciamo a mandare a votare qualcuno. Sì, perché così il 17 aprile mi sa che... Il referendum last minute. Esatto. No, perché io credo, Emiliano, buongiorno, sono Gerino, che se convinciamo il governo... per una misura di logica oltre che di risparmio, a spostarlo nel giorno delle elezioni amministrative. Lui accetta la prima parte, sì, lo sposto, poi dice lo anticipo al 17 di marzo. Questo è quello che mi aspetto. No. Lo stile di governo è quello lì. Ah, beh, detto da lei, poi, che voglio dire, dice non attacco mai Renzi. No, ma è lo stile di governo, nel senso loro sono molto convinti della loro politica energetica, sia pure mai dichiarata esplicitamente, e dunque ritengono che il fine giustifichi, anzi che il fine giustifichi i mezzi, che quindi pur di evitare incidenti lungo questa strada valga persino la pena nello stesso Consiglio dei Ministri dove si rinviavano i 200 milioni necessari per compensare gli investitori delle banche che sono in difficoltà per 200 milioni di euro, nello stesso Consiglio dei Ministri si decideva di spenderne quasi 350 per un referendum che si può tranquillamente fare assieme alle elezioni amministrative. Comunque ce ne faremo una ragione, ci sono guai peggiori di questo. Sì, Ma la data è quella, perché so che lei spera ancora di cambiarla. Ricordiamo, la Puglia è una delle regioni che aveva promosso questi referendum, certo. E ne è rimasto di quesito uno, che mi sembra anche poi quello meno incisivo. Meno... Certo, poi non vorrei che qualcuno pensasse che le regioni sono come un qualunque comitato referendario, fermo restando il mio rispetto assoluto per chiunque chieda un referendum. Però per le regioni che chiedono il referendum per la prima volta nella storia d'Italia, secondo la Carta Costituzionale, secondo me, per esempio, un incontro con il comitato promotore prima di stabilire la data, una discussione sul modo in cui impostare la comunicazione, l'informazione a tutti i cittadini, insomma, sarebbe stato molto meglio. Io non capisco perché si debba essere anche scortesi in qualche caso. Ma non è anche un problema politico, ne parlavamo prima, Emiliano, con Alessandro, un ascoltatore. Uno si aspetterebbe dalla sinistra, proprio perché nella storia d'Italia con i referendum si sono fatti passi in avanti quando c'erano impasse politici su grandi temi, si aspetterebbe una sensibilità maggiore esattamente verso quello che ha appena detto lei, verso il coinvolgimento istituzionale di soggetti istituzionali, perché secondo la Costituzione poi quando il referendum si incardina si diventa dei veri soggetti, seppure temporaneamente, ma istituzionali come comitati promotori. Perché la sinistra viene meno esattamente a questo che uno si aspetterebbe? Abbia timore di un risultato scontato e quindi punta, come faceva una volta la destra, al non raggiungimento del quorum per evitare un guaio, diciamo così, politico, economico, chissà, che io non, sinceramente non riesco a capire, anche perché anche un referendum che non dovesse raggiungere il quorum forse non colpisce effettivamente giuridicamente la norma, ma dal punto di vista politico non è che cambi poi tanto, nel senso che il pronunciamento ha comunque un grande valore. Ecco perché io spero ancora che il Presidente del Consiglio decida di convocare il comitato promotore, le regioni, e si discuta sulla data, sulle modalità, sul modo anche in cui affrontare, ripeto, una tesi, quella del governo, che non è ancora stata dichiarata, ma che è legittima. Cioè, io sono contrario a quella tesi, però non è che la tesi di andare a cercare il petrolio nell'Adriatico sia una tesi da matti. È una tesi che io contrasto, soprattutto in questo contesto storico, ma che forse andrebbe spiegata e probabilmente alcuni italiani potrebbero anche condividerla. Ma lei ha detto, lei ha detto che non è stata spiegata, ha riferito anche in un'intervista oggi sull'Espresso, addirittura ha parlato di riunioni segrete fatte tra governo e alcune regioni, tenendo fuori lei volutamente, lei come Regione Puglia. Questo ce la deve spiegare un po' di più. Sono riunioni informali, diciamo così, che miravano a tentare anche di riconciliare me con il Presidente del Consiglio, quindi non erano segrete nel senso che probabilmente molti miei colleghi si erano preoccupati di questa situazione, e siccome evidentemente io venivo considerato l'estremo opposto della discussione, probabilmente era meglio che io non ci fossi. Un po' mi sono dispiaciuto comunque. Però aspetti però, è molto molto fumosa. Aspetti come cosa, però, no? Se erano volte a, siccome siete parte dello stesso partito, perché tutti i presidenti poi di regione del sud, 8 su 10 comunque dello schieramento iniziale referendario, appartenente a tutti alla stessa parte politica, ma se erano volte in qualche misura a rigettare un ponte tra lei e il Presidente del Consiglio, lei lo sapeva, quindi qualcuno poi gli veniva a dire: ma dai su Emiliano, perché litiga con più Renzi? O meno così, più o meno così. E chi era che veniva a dirle? Beh, adesso la curiosità non si dice. Però adesso faccio il mio mestiere, ma io sbaglio ad azzardare che nello schieramento, all'interno dello schieramento Regione del Sud a guida PD, quelle tra virgolette più con i contatti più stretti, insomma, per vedere di portare a casa un accordo piuttosto che lo scontro, sia pur nel fronte referendario, sono la Basilicata e un po' anche l'Abruzzo, sbaglio? Perfetto. Va bene, quindi abbiamo capito che c'erano i governatori di Basilicata e Abruzzo. Sono dinamiche assolutamente normali. Ma no, infatti. È come quando due litigano e il terzo lo manda lì, dicendo: ma vai a dirgli di no, dai. La Repubblica viene governata proprio così. Io non so se gli italiani ce l'hanno chiaro. Ecco. Fermo restando che il governo ovviamente ha sempre l'ultima parola, però il meccanismo della Costituzione prevede che tutte le decisioni più importanti vengano prese attraverso intese tra il governo e le regioni, e quindi le regioni hanno un luogo che si chiama Conferenza delle Regioni, dove veramente, un fatto miracoloso, queste 20 regioni riescono quasi sempre a decidere all'unanimità. un miracolo, perché si tratta di una riunione di condominio con 60 milioni di persone, con 20 leadership diverse, che poi devono dialogare col governo. E quindi mandarla a pallino, sottraendole importanza, secondo me è un errore, perché è una di quelle prassi costituzionali che ha dato buoni risultati, tant'è che tutte le trivellazioni che ci sono in Italia, perché non è che noi in Italia non abbiamo pozzi petroliferi, sono state effettuate con intese tra Stato e Regioni. Quindi la tesi delle regioni non è ambientalismo ideologico senza ragionevolezza, è semplicemente constatare e verificare se per la importanza del luogo dove le ricerche o le trivelazioni devono essere fatte, o per la scarsa aspettativa di guadagno, non valga la pena mettere a rischio l'ambiente, il turismo, la pesca, eccetera, eccetera. Tra l'altro, presidente Vignano, ci ascolta anche Enzo Di Salvatore, che è un costituzionalista e tra i fondatori del movimento No Triv, giusto Di Salvatore? Così, No Triv. Buongiorno. Sarete arrabbiati, ma vi fa più arrabbiare il fatto che lo scorporo, diciamo così, delle date comporta un esborso di denaro stimato in 300 milioni o il fatto che proprio si voglia politicamente far fallire questo referendum? Ma entrambe le questioni, direi, perché quest'anno rischiamo di andare al voto ben 5 volte. Perché da un lato c'è già questo... Giannino sta facendo i calcoli, effettivamente... Sì, adesso vi spiego perché. Perché intanto c'è questa data fissata. Sì. Dopodiché occorre attendere la risoluzione dei due conflitti che pendono dinanzi alla Corte Costituzionale, con i quali conflitti potrebbero essere recuperati altri due quesiti, nel qual caso si andrebbe a votare un'ulteriore volta. Sì. Poi sono le amministrative, i ballottaggi e il referendum costituzionale. Ah certo, è vero, 5 volte. E quindi lei dice un po' troppe, ecco. Beh, insomma, direi che una delle critiche che è stata così mossa è il fatto, addirittura contro l'ipotesi di accorpamento e quindi contro l'ipotesi di Election Day, che il cittadino si confonderebbe. Lei immagini se il cittadino dovesse andare a votare per la revisione costituzionale e immagini anche la posizione delle regioni a guida PD e del governo PD rispetto alla revisione costituzionale e rispetto al referendum qualora dovesse essere accorpato, rispetto agli altri due quesiti che ancora permangono. Quindi diciamo la confusione potrebbe essere molta. Poi dopodiché è chiaro che il governo ha individuato come prima data utile la prima domenica che la legge 352 consente per la fissazione del referendum, perché no, occorre individuare una domenica ricompresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, è però ad aprile non si è mai votato se non due volte. Ce l'hanno fatta alla prima occasione, come dire, così vi dà poco tempo per... Ma più che altro perché ci sono due mesi appena, perché tenete conto che il referendum non è stato ancora formalmente indetto. Occorre il decreto del Presidente della Repubblica, da quel momento si è in campagna referendaria a tutti gli effetti, e da quel momento ci saranno anche gli spazi nei mezzi di comunicazione di massa, che però sono riservati ovviamente ai delegati regionali che compongono il comitato. E questo vuol dire poco meno di due mesi per una campagna referendaria, cioè neppure il tempo di organizzarsi. Quindi il problema, io accetterei personalmente molto più uno scontro nel merito, quindi una campagna per il no o una campagna per il sì, piuttosto che una nessuna campagna. Sì. Ma basti pensare che prima ancora che ci fosse il question time nei confronti di Alfano, il sottosegretario Lotti aveva già espresso la sua posizione il 29 gennaio scorso, invitando all'astensione. Ecco. Quindi non sia una buona pratica. Perché il problema, adesso, se sommiamo quello che ci diceva Emiliano con le osservazioni appena esposte, otteniamo un'impressione, per giornalista sintetizzo, cioè il governo preferisce davvero non dovere lui esporre la sua tesi, mentre io non avrò remore, mi farò sconfiggere nel merito perché sostengo che non ci sono limiti analoghi in altri paesi, eccetera, eccetera. Farò dibattiti nel rispetto reciproco con Emiliano, lui sostiene la sua tesi, io dirò ci serve per l'economia invece continuare la ricerca. Però questo è un dibattito legittimo. Il governo, la parte che voglio, che sono pronto a fare, assumendo una responsabilità e accettando la sconfitta, se fosse così, cioè di spiegare agli italiani: no, noi vogliamo le concessioni per le prospezioni e per le estrazioni, non la vuole fare perché sa che è una parte impopolare. Certo. Sa è che meglio, diciamo, meglio nel silenzio. Meno si parla del merito, meglio è. Ecco, questa che è una cosa che a me irrita. È questo Emiliano il punto politico che lei ha sottolineato, no? Ah sì, per, perché i paesi si governano riconciliandoli, non si governano separando i gruppi di interesse e mettendoli in conflitto l'uno con l'altro. Anche quando si prende una decisione che pregiudica una tesi, per esempio quella di Giannino, non è che poi io e Giannino dobbiamo litigare. Ma certo, sono d'accordo, esattamente, esattamente. Dobbiamo trovare un punto di intesa. Poi almeno per 10 anni si decide che stiamo calmi con le prospezioni degli idrocarburi, per esempio, e dopodiché si passa a un'altra cosa che, sulla quale probabilmente io e Giannino siamo d'accordo. Ma non c'è dubbio. Io penso che questo sia un metodo di classi dirigenti, insomma, cioè responsabili e serie. Ah, è chiaro. Ma per quello che sarà la nostra piccola parte, cercheremo di informare. Però Emiliano, concludiamo con questa cosa. Lei è segretario del PD in Puglia, sa che sia io che Giannino siamo rimasti colpiti da questa folgorazione sulla via di Bisceglie, per esempio, dove tutti sono passati al Partito Oddio, Democratico. Non perché immaginiamo che il sindaco di Bisceglie sia San Paolo. No, però che sta succedendo? Perché ci sono luoghi, ma anche in Sicilia c'è tutto un movimento. Perché tutti si iscrivono? Hanno questa voglia di iscriversi al Partito Democratico? Beh, innanzitutto il caso di Bisceglie è un po' diverso, perché il sindaco è un sindaco che era dell'UDC e governava fino a 4 anni fa con il centrodestra, e l'UDC è stato un partito che ha fatto un po' diversi movimenti, quindi prima a destra e poi a sinistra. Non è molto gradito, lei dice. Dopodiché l'ala fittiana, diciamo così, di Forza Italia lo fa cadere, perché lo voleva far fuori. Lui, devo dire, fa qualche cosa di straordinario, perché si ripresenta da solo alle elezioni, quindi con liste solo civiche praticamente, e batte sia la destra che la sinistra. E naturalmente il PD a Bisceglie ha sofferto molto la forza di questo sindaco, che poi è diventato anche presidente della provincia. Devo dire, anche lì, siccome il PD gli aveva fatto un po' di barricate anche in quel caso, lui voleva fare il candidato del centro-sinistra, il PD non lo ha voluto e lui è diventato presidente da solo, praticamente facendo l'accordo con tutti i sindaci della provincia. Dopodiché ha nuovamente chiesto di entrare nel Partito Democratico, ci ha sostenuto durante la campagna elettorale delle regionali e adesso ha fatto la tessera online, come fanno proprio e va bene così? I Pinco Pallini. Io penso che non ci sia nulla di male in un processo del genere. Poi, dopodiché sono pronto a subire tutti i giudizi negativi. No, ma vabbè, però insomma la sua posizione è chiara. Ci dobbiamo fermare. Occhio a cosa capita domani sera, evento nazionale. Mi raccomando, tutti Juve quanti. Napoli, certificato con l'ONU, ci vogliono gli osservatori dell'OSCE. Non Sanremo dove vincerà Ruggeri, ma c'è Juve Napoli. No, io parlavo anch'io, sì. Come del tuo stesso evento. A domani. Oggi pomeriggio, domani mattina.